Tu e Parenzo sembrate a volte i deregi evoluti. Avete un enorme sarchiapone lì come Walter Chiari, ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così? Perché sono uno stronzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Siamo da nevrosi, siamo affetti, spariamo dei sorrisi, degli alibi perfetti, colletti inamidati dai trascorsi assai sospetti. Siamo tutti matti, fuori di misura, in fondo ogni promessa, l'incertezza e la paura, fragili ed inetti, bugiardi trasformisti, regalaci un computer se non vuoi vederci tristi. Siamo tutti matti! Riguarda le infiltrazioni, sì, ci sono, è vero, le abbiamo segnalati, si chiamano Letta, si chiamano Alfano, si chiamano come i nomi di cui, questi sono gli infiltrati delle nostre istituzioni. Alfano dovrebbe preoccuparsi, come tutta la classe politica, di rispondere dei danni che stanno facendo al paese. Sciocchi e intraprendenti, vera oppure affari scelti, decidiamo che destino avremo mai, se l'occhio andrà d'accordo col cervello. Vogliamo anche risposte, noi ci trattiamo con loro, se ne devono andare. Non vogliamo trattare con queste istituzioni che stanno parassitando sulla nostra vita e che non ci rappresentano, se ne devono andare. E fino a quando andrete avanti con questa protesta? Finché non se ne vanno. Donne anche voi che imprudente bugia. Matti senza via d'uscita, ogni sistema è buono per fregare questa vita. Barche senza remi, asciutti temporali, frammenti d'infinito in balia dei cellulari. Siamo tutti matti. Uno dice bisogna capire i forconi, no? Uno dice bisogna capire perché c'è anche gente per bene, c'è gente che si ribella alla dittatura delle tasse, c'è gente che si ribella all'oppressione fiscale, che manifesta in maniera legittima contro il potere, contro lo Stato tassatore, contro la crisi, eccetera, eccetera. Poi sente uno dei leader della protesta. Il quale dice genericamente hanno violentato la Costituzione, un agricoltore di Latina, si chiama Danilo Calbani, lo avete ascoltato, dice che gli infiltrati sono Letta e Alfano. Gli infiltrati, Letta e Alfano. Io do dei pessimi giudizi di Letta e Alfano, però non mi vada di stare dalla parte del signor Calbani. Il quale sostiene che bisogna fare un governo provvisorio con le forze dell'ordine. Un governo provvisorio con le forze dell'ordine. Uno dei capi dei forconi, uno dice devi capirli, non fare così, non attaccare questi forconi perché è gente disperata, è gente che ha perso il lavoro. Poi senti il signor Calvani, uno dei leader, che dice bisogna fare un governo provvisorio guidato dalle forze dell'ordine. Se ne devono andare, assolutamente, chiederemo immediatamente che venga fatto un governo istituzionale presieduto da un componente delle forze dell'ordine o qualcosa del genere, il Presidente della Repubblica scioglie il Parlamento e indice elezioni entro 6 mesi, contemporaneamente deve essere fatta immediatamente una legge elettorale, ma non da questi, su immediatamente dal governo istituzionale che viene fatto, non vogliamo trattare con questi qua, non ci tratteremo più, questi hanno distrutto il nostro Paese. Ancora questo Calvani che mi piace un sacco. Scusa. Sì, dimmi. Ma questo signore qui è quello che poi ha lasciato la piazza a Borgo di Nazianzo. Bravo, amico mio, ha lasciato la piazza a Genova con una bandiera italiana, con una Jaguar, Jaguar. Questo, no? È questo signore. È lui, qui. Sì, è lui con una Jaguar. Per carità, gli sarà stata prestata da qualcuno, sarà stata non so quale tipo di, no, non dico scorta, ma di aiuto, però è andato via con una Jaguar. Cioè il leader di quelli che hanno le pezze al culo, cioè il leader di quelli che hanno le pezze al culo e rivendicano di essere stati distrutti, è andato via con una Jaguar. Una Jaguar, amici miei, una Jaguar. Che orrore. Uno dice deve capire i forconi, la rabbia della gente. Questo è andato via in Jaguar. In Jaguar. Il 9 dicembre, dice lui, cioè diceva a novembre, poi adesso dice che dopo la fiducia al governo Letta vuole fare non so che cosa, la rivoluzione. Vabbè, ci riprendiamo la nostra dignità, poi sbaglia, sentiamo. Siamo tutti matti. Dal 9 dicembre in poi succederà che il nostro paese, l'Italia, il popolo italiano, i cittadini italiani, in maniera compatta, divisa, lotteranno ad oltranza per riprendersi la propria sovranità, per riprenderci la nostra divinità, dignità, e per riprenderci il prestigio che ci è stato tolto da una classe politica di parassiti, di farabutti e di delinquenti. Siamo qui, la Zanzara è andato via in Jaguar, il signor Calvani, 800240024, andava da Genova a Torino. Ma non è tutto, oggi in Parlamento se ne sono dette di tutti i colori durante la fiducia. Intanto Villarosa, che è un deputato, credo il capogruppo, non lo so, questi cambiano sempre, Grillino, Villarosa, facciamoli scomparire. Questo paese io lo amo e non ve lo lascerò distruggere. Cittadini, smettiamola di farci prendere in giro, dobbiamo smettere di farci mettere i piedi in testa. Io non permetto a nessuno di calpestare la mia dignità, noi non ve lo permetteremo. La nostra dignità di popolo italiano, ve lo dico una volta, concluda. Ho finito. Se non ci svegliamo adesso e li facciamo scomparire, ce ne pentiremo per tutta la vita. Nuti, vi faremo sparire il nome di chi avete ucciso. Ucciso. Noi cittadini onesti vi faremo sparire. Costi quel che costi, in nome dei nostri genitori, in nome dei nostri figli, in nome di tutti coloro che avete ucciso in questi decenni. Non vi diremo vergogna. Si rivolga con rispetto all'aula e al governo. Perché non vi diremo vergogna, perché anche questa possono provarle i cittadini onesti e non siete certo voi. Grazie ad una mela siamo entrati nella storia. Siamo tutti morti. E intanto Brunetta dice bisogna ascoltare, a proposito sempre dei forconi, bisogna ascoltare il frastuono. Centrodestra che bellica, il centrodestra che si mette dietro i forconi. Noi diciamo che va ascoltato il frastuono che sale dai partiti, dal paese, sale caoticamente, è vero, ma è compito della politica, nobilissimo compito, l'ascolto del frastuono, delle grida dolenti che si sono manifestate, delle proteste estreme, del dolore silenzioso. Anche ciò che è silenzioso è frastuono tremendo. Ma Brunetta, ma in altri momenti avresti mandato i carabinieri, dai, su! No, in altri momenti avresti mandato i carabinieri! Ma immaginati la scena del signor Brunetta che esce fuori dal Parlamento e trova a dire queste cose ai signori forconi. Dice sì, bisogna ascoltare il vostro frastuono, bisogna capirlo. Secondo me, appena lo vedono uscire, i signori forconi lo prendono a calci nel sedere, lui non fa neanche in tempo a dire sì, bisogna ascoltare il suono che arriva dalla piazza, ascoltare, non fa il tempo a finire una parola. Poi pensavo questo, che il miglior modo per combattere l'immigrazione, sai qual è? Qual è? Cioè, no, gli immigrati non verranno più nel nostro paese, perché se vedessero ad esempio i grilli, quello che i grillini dicono in Parlamento, e vedessero i forconi in piazza e poi vedessero i leghisti, gli immigrati non arrivano più qui, dicono ma cazzo, ma noi rimaniamo nel nostro paese. Vabbè, l'hai già detta sta cazzata, dai. Dittature. L'hai già detta, l'hai già detta. L'hai già detta. Non ci vediamo. Non c'è più un modo per... L'hai già detta, l'hai già detta, dai. Ma è vero però. L'hai già detta, dai. Adesso fai ridere. Sempre meglio del tuo telegiornale. È con noi Davide Faraone, componente della segreteria del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, oggi in Parlamento a Faraone un esponente del Movimento 5 Stelle che si chiama Riccardo Nuti, che avete testé ascoltato, ha detto che ha avuto rapporti con un mafioso e anche se non è indagato non va bene lo stesso. Innanzitutto, senza entrare nel dettaglio, poi magari ci entreremo, come risponde a Nuti? Che personaggio è sto Nuti? Dice che abita dove abitava lei a Palermo, dove abita ancora a Palermo. Ma intanto una persona che scrive sulla sua pagina Facebook il mio indirizzo di casa, e lo mette, lo rende pubblico ai cittadini italiani, secondo me si giudica da sé, senza bisogno che io vi descriva il personaggio. Cioè, cosa ha fatto? La lui, persona scusi? Che si fa votare ha scritto il mio indirizzo di casa, dove sta la mia bimba di 11 anni, è una sì. donna, e questo già giudica la persona che si è cioè, lei pensa che questa, ma ha scritto l'indirizzo completo? Indirizzo completo con la targa della macchina di mia moglie. Ma perché l'ha fatto? Perché l'ha fatto? Ha riportato una parte di questa ordinanza in sì. cui c'era scritta appositamente senza preoccuparsi di togliere l'indirizzo e la targa dell'automobile. Mm. Quindi con una condizione per me di rischio e di pericolo concreto, tant'è vero che ho dovuto avvertire la Digos e i carabinieri per poter presidiare casa mia, essendo a Roma e abitando invece sì, a Palermo. Sì, ho capito. E un fatto di questo genere secondo me già qualifica la persona. Se però poi scusi, è un metodo, ha utilizzato un metodo mafioso? Che metodo ha utilizzato allora facendo questa metodo cosa? Metodo mafioso e fascista, squadrista, è il metodo che sta caratterizzando il Movimento 5 Stelle in queste, da quando è nato. Lo fa con i giornalisti, lo fa con i politici, lo fanno con tutti coloro che liberamente esprimono le proprie opinioni, hanno deciso di utilizzare questo metodo che è veramente avversivo e pericoloso. Stanno alimentando un clima sì. su cui io avverto una grandissima preoccupazione. Un attimo solo, Faraone, abbiamo il traffico, torniamo subito perché lei ha detto una cosa importante, grave anche, cioè Nuti, senatore, anzi deputato dei 5 Stelle, ha pubblicato sul suo sito Facebook, magari l'ha rimosso, ha controllato se è stata rimossa questa cosa? Abbiamo fatto rimuovere 5 minuti fa, ma c'ho le immagini salvate, la fotografia certo. fatta alla sua pagina. Ha pubblicato sulla pagina Facebook indirizzo col numero di targa della moglie che era contenuto in un provvedimento giudiziario, cioè in un documento giudiziario, traffico. Fa male solo a chi non sa ridere, e la Zanzara. Ancora a casa, le zanzare di casa mia. Siamo qui 800 24 00 24, la Zanzara con Davide Faraone, deputato del Partito Democratico, componente della segreteria appena nominata da Renzi, accusato dal Movimento 5 Stelle, in particolare da Nuti, di essere in sostanza un amico dei mafiosi, di aver frequentato dei mafiosi. Ma poi quell'episodio in cosa consiste, Faraone? Cioè lei è andato veramente a casa di questo che poi si è scoperto essere un mafioso? Consiste nel fatto che c'è stato in una campagna elettorale del 2008 un incontro con delle persone allora incensurate che tra l'altro intercettate dai carabinieri dichiaravano, e invito tutti coloro che vogliono farlo a cercarsi l'ordinanza informativa e leggerla, e dichiaravano che il sottoscritto era inaffidabile e sì. l'altro interlocutore al telefono diceva che aveva strappato i facsimili. Su questa vicenda di qui c'è stato un processo in cui è stato condannato un politico, sì. il sottoscritto non ha ricevuto nemmeno un avviso di garanzia. Ma lo stesso Nuti dice, Faraone non è coinvolto in nessuna inchiesta, ma è comunque moralmente corrotto, anche perché, come ha mostrato Striscia la Notizia, poi qui c'è un altro capitolo che si apre, alle primarie per l'amministrativa di Palermo... Al ventilatore col fango che schizza da tutte le parti, per cui di fronte a queste cose di qua uno non può replicare. Tra l'altro io ho sfidato oggi in aula a rinunciare all'immunità parlamentare. Perché? A ripetere le stesse identiche ma cose. Ma uno può denunciare dall'aula. Uno può denunciare le persone o no? E posso denunciarlo, ma lui ha l'immunità, per cui si salva dietro questo strumento della casta che loro tanto contestano. Quando io ho chiesto lui di rinunciare all'immunità e di ripetere le stesse cose fuori dall'aula, lui ha detto, ha balbettato e non ha replicato. Lo sfido ulteriormente a farlo, ripeta le stesse identiche cose che ha detto in aula fuori dall'aula, sì. rifiutando l'immunità parlamentare. Lo querelerò, faremo il processo e vedremo chi è che ha ragione. Però scusi, Nuti, questo qua lei pensa che sia un atteggiamento fascistoide, un atteggiamento estremista, un atteggiamento violento? Cioè lei ha paura per la sua incolumità? Beh, io ho paura per la mia incolumità, perché si stanno mettendo, per la mia incolumità e per la incolumità delle persone a me vicine, è veramente... L'hanno minacciata in queste questo, ore? In queste ore ha ricevuto minacce su web, le solite cose? Io basta che mi andate a vedere il mio profilo Twitter, il mio profilo Facebook, e vi renderete conto che ce ne sono alcuni di... Che hanno messo in pericolo anche la sua famiglia. Tra l'altro, ripeto, è un fatto che riguarda il 2008 e lo hanno tirato fuori oggi che entro in segreteria nazionale con Matteo. Vabbè, quello perché lei è entrata in segreteria nazionale. Ho capito, però... è pesante, cioè non auguro a nessuno quello che oggi è stato fatto nei miei confronti, anche perché... Cioè, più mafioso Nuti, lei dice un atteggiamento mafioso quello di Nuti, non le accuse di essere amico dei mafiosi? L'ho detto in aula, quindi lo sto ripetendo ora, l'ho detto in aula. Dopodiché, scusi, però quella vicenda là di Striscia la Notizia, no? Chiariamo questa roba qua. Striscia la Notizia pubblicò un video in cui lei a un certo punto fa capire, adesso si sente anche male, ci sono le solite scritte sotto, dice sì dai che partiamo, è legato alla vittoria, e si riferisce alla promessa di posti di lavoro in cambio del voto per lei alle primarie del Partito Democratico all'epoca. Dal video si capisce abbastanza chiaramente che lei dice i posti di lavoro sono legati al fatto che io vinco le primarie, o comunque che voi mi date lavoro. Da cosa si vince? Dalle frasi di portate sotto. Io allora in quell'occasione incontrai un tizio che era un elettore per le elezioni primarie del PD, il quale sostanzialmente decise di sostenermi. Poi questo tizio, nei luoghi in cui faceva campagna elettorale, ha utilizzato metodi che io ho condannato e ho contestato pubblicamente, l'ho fatto in quell'occasione. Dopodiché il tema e la questione è assolutamente... No, ma è vero o no che lei chiese, anche... questa cooperativa chiese voti per lei in cambio di posti di lavoro, è vero o no? Assolutamente no, assolutamente no, e sfido anche lì a qualcuno che lo voglia dire, a dirlo, compreso Nuti, e a eventualmente accettare la mia denuncia. Quindi io dunque in quel video là di... continuo a smentire, non c'è stato mai nessuno scambio, mai nessuna volontà da parte mia di scambiare nulla, se non una richiesta da parte di questo tizio che era presidente della cooperativa di sostenermi in cambio di nulla. Però scusi un attimo, quando lei risponde in quel video di Striscia la Notizia, dico che partiamo ed è legato alla vittoria, vabbè che era un momento convulso lì durante... Ma infatti se lei va a guardare il video si sta parlando di un concerto in cui in piazza alla Vucciri a Palermo, in cui un tizio mi grida da lontano e delle cose, io gli rispondo semplicemente... normalmente rispetto ad una questione che... Beh, lei dice esplicitamente dico che partiamo è legato alla vittoria. Partiamo cosa? Cioè, partiamo col lavoro, almeno così si capisce. Ripeto, no, assolutamente no. Comunque lei non ha mai offerto posti di lavoro in cambio di voti alle primarie del PD, come dicono i 5 Stelle. Neanche per idea. Ripeto, è un metodo che stanno utilizzando e che purtroppo stanno colpendo in questo momento me, potranno colpire qualcun altro, ma continuo a dire... C'è un modo per verificare tutto questo. Il fatto che lui lo dica fuori dall'aula e che io lo possa querelare, che ci possa essere un processo in cui si accetti se Davide Faraone dava posti di lavoro in cambio di voti, se Davide Faraone era mafioso oppure no, lo stabiliamo lì. Parenzo? Perché lui non rinuncia all'immunità. Lui non rinuncia all'immunità. La cosa più interessante e anche drammatica, lei ha detto, è i 5 Stelle hanno messo in pericolo la sua famiglia oltre che lei. Questo è il fatto più eclatante. Lei ora si sente minacciato. È inquietante oltre che eclatante. Va bene. Tra l'altro non lo sapevo, l'ho saputo direttamente da una persona che l'ha visto. Non è stata una bella giornata. E ha fatto le fotografie? Mi raccomando. Ho fatto le fotografie, farò la denuncia alla Dios. Comunque, Dio ce la mandi buona. Scusate se vi ho disturbati. Benvenuta nel mio spazio sotto il salice. Renzi e quelli di Grillo che dovrebbero essere portati via in ambulanza con un TSO. Anche Beppe Grillo ha portato una grande innovazione in Parlamento, non mandando tanti volti freschi, tanta gente giovane. Ma scusi, Florence, secondo lei com'è andato? No, nessuno delle persone che ho nominato crede alle sirene, nessuno delle persone come fanno una deputata di Beppe Grillo. Una, pure smentito. Quella dopo ha detto che c'ha il microchip, quello crede alle scie chimiche, perché se queste cose le facesse uno del PD... Io proporrei il trattamento sanitario obbligatorio, quindi non ho difficoltà a dirlo. Carlo Sibilia, un deputato dei 5 Stelle, scriveva, prima di entrare in Parlamento, era un anno fa, scriveva su internet. Che cazzo è questo rumore? È David, sì, vabbè, come al solito. Lasciatelo lì nel suo antro. Carlo Sibilia, il 26 di novembre, dunque un anno fa del 2012, scriveva: discutere una legge che dia la possibilità agli omosessuali di contrarre matrimonio o unioni civili, a sposarsi in più di due persone, più di due persone, e la possibilità di contrarre matrimonio o unioni civili anche tra specie diverse, purché consenzienti. Specie diverse, purché consenzienti. Spero che l'abbia scritto qualcuno al posto suo, qualcuno che voleva fare uno scherzo, caro Sibilia. Legalizzare i matrimoni di gruppo e tra specie diverse, purché consenzienti. Un altro Morra, che credo sia stato capogruppo, è attuale capogruppo al Senato, è stato capogruppo al Senato, dice che se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle sarebbero arrivate in Italia le Brigate Rosse, sarebbero tornate le Brigate Rosse. Bah. Titoli del TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Dalla Camera sia la fiducia, tra poco vota il Senato, Letta un nuovo inizio, non farò piombare il paese nel caos, no ai populismi anti-europei. Tensione con il Movimento 5 Stelle e il Premier, inaccettabile la gogna per i giornalisti, Grillo, Letta mente agli italiani, offende il nostro movimento. Renzi riunisce la segreteria, poi incontra il capo dello Stato, faccia a faccia su riforme e legge elettorale, il Partito Democratico chiede che l'esame cominci dalla Camera. Forconi, terzo giorno di protesta, il leader siciliano, noi non c'entriamo con teppisti e diversivi che sfruttano la nostra sigla. A Torino, forze dell'ordine a difesa dei commercianti, tagli e sacrifici per tutti nel nuovo piano industriale dell'Alitalia, l'incognita di quasi 2000 esuberi, delusi lavoratori e sindacati. Ancora un giorno di trattative per risolvere la crisi ucraina, ma con il buio della notte le squadre speciali forzano i blocchi dei manifestanti. E Papa Francesco, l'uomo dell'anno di Time Magazine, secondo la rivista americana ha portato il papato nelle strade ed il simbolo del cambiamento del 2013. Ancora una volta dicono che bisogna stare tranquilli sui forconi, che bisogna capire, no? L'Italia che scende in piazza, l'Italia che subisce dei soprusi, l'Italia vessata da Equitalia, l'Italia che subisce il peso di una crisi pazzesca, l'Italia che subisce una pressione fiscale come nessun altro paese in Europa, eccetera, eccetera. Poi a Torino cosa accade? A Torino dei manifestanti saranno degli infiltrati, saranno anche dei provocatori. Cosa fanno? Sentite cosa fanno a questo commerciante. Cosa c'è da capire? Siamo nel nome di Napoleone. Vieni con me, vieni con me. Napoleone. No, ma vieni che ti porto soltanto qua là. Ma vieni con gli alieni. Faccio vedere. E mica noi siamo qua per fare guerra. Solo per diritto siamo qua. Ma da dove arrivi? Tutta l'Italia. In quale pianeta arrivi? Sì. Che cazzo mangi? A protestare. Cosa mangi? Vestiti mangia. Più scontrini. Grazie a quelli che tengono aperte le serrande quando la gente dice di non tirarle su. Dove vivi? Ma non vedi che è tutto chiuso? Ma non se ne stai a porto? No, non apre nessuno, se lui chiude. Vedi, per forza di mezzo. Ma lei parla direttamente dell'italiano. Bisogna fare gruppo stavolta, se vogliamo ottenere qualcosa. Con noi! Siamo noi il popolo! Io ho un'attività come la tua, l'ho tenuta chiusa! Minchia! Cazzo Dio, ti ho fatto un dio! Prendiamo due chiacchiere, tanto! Aspetta, ma se ne apriamo la mente! Gli volevano far tenere chiuso il negozio, volevano chiudere il negozio, vabbè. Luciano, provincia di Cagliari. Buonasera, sono io? No, un altro, è Francesco dalla provincia di Oristano. Luciano, certo che è lei, sennò chi è? Senta, ieri sera, dopo quelle due telefonate di insulti, mi è piaciuta la ringa di Parenzo nei suoi confronti quando si parlava dei poveri di sempre. Sono contento, però, sono contento. Se mi regala 60 secondi voglio dire tre cose. Allora? Una è questa. In una bellissima foresta sulla Maiella, nell'Abruzzo, c'è un monumento composto da un prisma alto circa 1,20 m, lato 50 centimetri, dove sopra c'è scritto in braille. Ecco, io vorrei sapere come mai, quando mai un cieco arriverà lassù da solo per leggere il braille. Una. Sì, ma che me ne frega a me, scusi, non ho capito. Sì, sì, vediamo se qual è il punto. Qual è il punto? Qual è il punto? Spendono tanti soldi. Ah, lei dice che spendono dei soldi male. No, no, no, mi lasci dire, si spendono tanti soldi per abbattere le barriere architettoniche. Sì. C'è una barriera architettonica che farebbe guadagnare molti soldi se venisse abbattuta, farebbe guadagnare molti soldi ai comuni. Qual è? È quella della legge che prevede ai padroni dei cani di portare appresso, quando escono con i cani, la paletta e il sacchettino. E lei pensa di risolvere i problemi dell'Italia, finanziari dell'Italia, con questa roba qui? Guardi, dell'Italia no, ma di molti ciechi che vorrebbero uscire da soli in città, sì. Vabbè, ma quello che noi siamo, per carità, i ciechi vanno benissimo. Voi siete vedenti, vero? No, no, per carità, ma lei è non vedente? Sì. No, ma Luciano, a tutto il mio rispetto, detto questo, non è che si risolve la vita in Italia in questo modo. La ringrazio. Carlo, provincia di Ancona. Carlo. Ciao, Cruciani, buonasera. Dimmi, dimmi. Senti, devo fare un'osservazione. Ma è possibile che te, quando parli del Movimento 5 Stelle, tiri fuori sempre le cose più stupide? Più stupide, per fortuna c'è ancora la libertà di scelta in Italia. A Villa Rosa, l'intervento di Villa Rosa di oggi alle 14. Sì, lo mando integrale, così chiudo la radio dopo. No, ma ascolta. Integrale, magari lo mando. No, io scelgo quello che mi pare, hai capito? Per fortuna siamo liberi di scegliere quello che vogliamo ancora. Non c'è la dittatura di Grillo, non c'è la dittatura del Movimento, non c'è la dittatura del Movimento 5 Stelle, ha capito? No, dai, su, dai. Mandi in onda Renzi che anche lì no, che l'ho mandato integrale. Per lei sono tutte chiacchiere, anche per me in parte sono chiacchiere, in parte no. Come per i 5 Stelle, alcune sono chiacchiere, altre no. E poi mando in onda mi sembra che te mandi in onda solo le sciapate. A parte che ogni trasmissione, io non devo far svegliare nessuno, ogni trasmissione fa quello che vuole. Io mando in onda le cose più divertenti, le cose che fanno ridere, le cose più ridicole, e no, questo no, è un la trasmissione tua mi piace, la seguo da ma allora caro, non ho capito, io scelgo, mi dai il diritto di scegliere o no quello che mandare in onda? Ma perché me lo devi dire tu quello che mando in onda? Perché me lo devi dire tu? Perché mi pare che mandi in onda quello che ti fa comodo a te, sì, perdonami. Quello che mi fa comodo a me, certo. Luca dalla provincia di Napoli. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dimmi. Volevo fare un intervento sui forconi. Cruciani, io premetto, sono un commerciante in difficoltà, ma in questi movimenti io sono sicuro che l'80% delle persone lavora a nero, ha l'abbonamento a Sky a casa. Ma chi? Stai parlando di quelli che partecipano al movimento dei forconi? Sì. Ma sì, non lo so, Samuele, ci sarà anche qualcuno così, però ci sarà anche gente vessata dalle tasse, gente in rovina, per carità, va benissimo. Cosa vogliono non si capisce. Poi. No, il problema è il metodo che è sbagliato. Cioè, io non riesco a capire una cosa. In Italia chi perde un posto di lavoro pensa di aver perso un vitalizio. Il posto di lavoro Bravo. Non è un vitalizio, è una cosa che si conquista quotidianamente facendo il proprio dovere, editando certificati con medici compiacenti. Io non ho mai sentito un forcone che abbia detto io sono disposto a rinunciare al 50% delle mie ferie per venire incontro all'azienda, e io non ho mai sentito un manifestante dire rinuncio ai permessi, sono disposto a rinunciare al 50%. Fermo lì. Sei ancora a casa, Emo? Eh sì, siamo ancora qua, caro Dell'Utri. Mi raccontano, mi riferiscono che Vittorio Sgarbi, oggi in diretta con Antonello Piroso a blogo.it, abbia detto alcune cose su Radio Belva. Ecco come ho fatto saltare la trasmissione di Parenzo e Cruciani. Ma noi siamo persone democratiche, aperte, e dunque se recuperiamo questo frammento del professore, dottore, maestro Sgarbi, sicuramente lo manderemo in onda. È la sua ossessione ormai. Ma no, glielo chiedono in realtà, penso che se ne fotte. Silenzio la vecchia! Antonio da Cuneo. Buonasera. prego. Niente, mi perdoni se mi permetto di darle subito la testa di cazzo. Sì, ma no, non c'è problema, non si preoccupi. No, perché so che se uno lo insulta subito lei lascia un po' più di spazio. Sì, si sbaglia, però se vuole può anche dirmi testa di cazzo tranquillamente, non è un problema. No, mi perdoni. Sì. La superficialità con cui state trattando sta storia dei forconi. Sì, la superficialità. Ecco il professore invece, no? Ecco arrivato il professore. Non sono un professore. Ecco arrivato il professore. Ma lei ha avuto un parente che perde la casa perché l'hanno licenziato, non può pagare il mutuo? Avete mai avuto... Sì. Mettiamo che non sia così, mettiamo che le dica di no, e allora? Le dica di no. Cosa cambia? Cosa cambia? Cosa cambia? Dei soldi, ma perché no? Persone che non hanno di che andare a fare la ma perché spesa? Non posso persone non posso che dare lavorano. E per ma questo siccome, mi perdoni. Sì, sì. Parla, sono io che ho chiamato perché ho qualcosa da dire. Sì, e io poi, posso farla parlare oppure non parlare, decido io. Comunque so, purtroppo... Ma la faccio parlare tranquillamente, non è un problema. Le chiedo una cosa, scusi, no, anche mettiamo che io non abbia avuto problemi, che non abbia avuto parenti con problemi, eccetera, eccetera. Mettiamo che sia così. Non sono titolato a giudicare quello che succede? È titolato, però quello che mi ha dato più fastidio è che ieri ha trattato con un'ironia neanche tanto velata quella persona. Quale? Saranno state le 7. Vabbè, allora che diceva? Insomma, e gli ha chiesto a un certo punto: lei cosa farebbe con questi politici che se ne devono andare a casa? Allora, e sto poveretto, non avendo la sua cultura, la sua istruzione, ma magari è il verduriere che le fornisce gli spinaci che mangia tutti i giorni. Sì. Prima di prendere qualcuno in giro bisognerebbe anche guardargli le mani. Ma a me non mi interessa quello che uno fa o non fa, io giudico quello che si dice non avendo davanti le persone e non conoscendo la storia delle persone che chiama. Lui non mi ha saputo rispondere, oppure ha detto allora sì, tutti via. Io. Sì, mi dica lei che cosa farebbe con le persone che stanno cosa potendo. Farei? Sì. Sto signore ha detto il conto corrente giustamente. Sì. Questi, oltre a rubare lo stipendio, rubano. Sì, rubano. Anche perché adesso ci siamo inventati il peculato. Sì. Allora, se io rubo una mela, sono un ladro. Sti porci che rubano milioni di mele, anche al poveraccio che non se la può comprare, sono accusati di peculato. Allora, io mi permetto, ma qual è a la... tutti i pensionati, mi perdoni, io abito a Cuneo, ma ho abitato per tanto a Torino. Certo. A tutti i pensionati o ai disoccupati, quelli veri, non quelli che non hanno voglia di lavorare, di andare sabato sera a Porta Palazzo a prendere scarti di pesce oppure a raccogliere merda per strada, presentarsi davanti alle istituzioni, la regione Piemonte per intendere, bravo. Visto che abbiamo anche pagato le mutande. Ma questo va bene, questo va bene. Cioè protestare davanti alla regione pieno di merda, perché questo si meritano sta gentaglia. Benissimo, innanzitutto all'interno della regione Piemonte ci sarà pure qualcuno onesto, ma in ogni caso bisogna basta andare sul sito o andare direttamente su Rimbostopici, ci sono le facce di merda. Sì. Ci sono le facce, quindi basta. Siamo sempre nel campo delle inchieste per adesso, le vorrei far presente. E poi va benissimo, per carità, perdoni, è una vergogna. Questo ascoltatore ha ragione su una cosa. Che dice che è stata la segretaria. Sì. Perché io adesso non guardo più TV perché mi viene un po' di mal di stomaco. Però l'ho vista l'altro giorno quando elogiava le segretarie, che sarebbe un Nobel, giusto? Sì, ma l'abbiamo detto che... ma mi perdoni, ma c'è ancora di più. Sono talmente deficienti che pur scegliendo loro, la signora Carossa credo che sia figlia... Certo, una vergogna anche questa, una vergogna anche questa. Certo. Sì. Ma allora è deficiente due volte questa persona, perché oltre ad essersi comprato le mutande e averle fatte pagare a me, non sa manco scegliersi i collaboratori. Doppia deficienza, mi perdoni. Bravo, su questo lei ha perfettamente ragione, Antonio. La ringrazio, lei è... Arrivederci. Grazie, adesso sono diventato squisito. Era una testa di cazzo prima. Ah, che fatica. Hai ragione. Ero partito dalla testa di cazzo e sono diventato... No, ma nella reprimenda iniziale che ti ha fatto, ha ragione. È la zanza, la zanza, la zanza, la zanzara danza. Danilo Calbani, leader del movimento 9 dicembre, detto anche dei forconi, ex Lega Nord Lazio, perché fondò la Lega Nord Lazio ad Aprilia, non so dove. Mi nascondo con le dice è andato via innanzitutto in Jaguar, è andato via in Jaguar da una manifestazione a Genova per andare a Torino, dove sta facendo un'altra manifestazione sorridente con la bandiera italiana dentro una Jaguar. Dice anche che in Italia bisogna fare un governo di transizione, un governo di militari. Calvani. Lei lo sa, ma sa aspettare. Quando è... Se ne devono andare, assolutamente, chiederemo immediatamente che venga fatto un governo istituzionale presieduto da un componente delle forze dell'ordine o qualcosa del genere, il Presidente della Repubblica scioglie il Parlamento e indice elezioni entro 6 mesi, contemporaneamente deve essere fatta immediatamente una legge elettorale, ma non da questi, su immediatamente dal governo istituzionale che viene fatto, non vogliamo trattare con questi qua, non ci tratteremo più, questi hanno distrutto il nostro paese. E come avverrebbe questo passaggio ad un governo, no? Ad un governo temporaneo? Bah, la Jaguar, dice non è mia la Jaguar, mentre se ne va, sentiamo. Scusi, come fa a avere una Jaguar? Non è la mia! Scusi, metta le mani a posto. Non è la mia, non è la mia! No, scusi, ma... Di chi è? Sì, oddio, io qua, cioè, tutta gente... Coordinatore, lì, se è la mia! Tranquilla nella stanza. Paolo da Milano, 800 24 00 24, dice che non è la sua la Jaguar, che non c'entra niente, qualcuno gli avrà pure data sta Jaguar, no? Il leader di quelli con le pezze al culo vanno via con la Jaguar. Questa comunque è un'immagine, no? Caro Calvani, poi te lo chiederemo più avanti se riusciamo a chiamarti. Sei andato via con la Jaguar, di chi era questa Jaguar? Paolo. Cruciani, ti devi vergognare. Sì, mi vergogno ogni giorno, ogni giorno. Vergognati. Ma no, ma forse non la conosci la vergogna, come dicevo. Ma che vuoi dalla mia? Ma che vuoi? Ma cosa vuoi? Ma cosa vuoi? Hai detto delle cose da squilibrato, con delle tue frasi hai profanato tutte quelle persone, i quali, vabbè, questo è un altro matto, imprenditori che si sono uccisi perché non potevano pagare. Ma figurati, figurati. E cosa dice il nostro conduttore vergognoso? Figurati, figurati. Ma se perdete lavoro, trovatevene un altro. Certo, ma certo. C'è la povertà, è fisiologica, gente che è finita senza lavoro. Ma che c'entra questo? Che dici tu e che si è ammazzata. Vi ripeti quelle frasi, conduttore vergognoso, attuale ai parenti di quelle si persone. Si deve sfogare questo qua. Si deve sfogare, no, dai. Mi sto sfogando con una persona che non merita neanche il ritegno. E allora perché hai chiamato? Perché hai chiamato? Ho chiamato per dirti che sei un buffone, che sei Bravo. Una persona vergognosa. Godo. Che sei una persona che gode alle morti di queste persone. No, ti sbagli. Ti sbagli. E spero che qualcuno dei familiari delle persone che si sono ammazzate, gli imprenditori uccisi, che si sono uccisi perché non riuscivano a pagare gli stipendi, perché strozzati da uno Stato vergognoso, dillo di nuovamente a queste persone. Cosa? Ai familiari di queste persone, ai profanatori delle morti di queste persone, ti dovresti vergognare. Bravo, faccio un plauso a quella povera vittima che si chiama Parenzo, perché ma non sa quello, non sa quello che dice, per cui lascialo perdere. Ha perfettamente ragione questo ascoltatore. Invece. Sì, ha perfettamente ragione quando dice che mi devo vergognare. Certo, sì. E te l'ho detto anche ieri, ti devi vergognare per quello che hai, questo non c'è dubbio. Ma vai, lasciamo perdere, va. Hai detto delle cose vergognose. No, Paolo, continua, ieri. Ma che vergognoso. Hai detto delle cose vergognose, rispetto per i parenti delle vittime. Ma non ho detto affatto qualcosa, Parenzo non sa quello che dice, perché io non ho affatto detto... Dirlo, Parenzo, io... ma lui era in studio con te, non stai tranquillo, Paolo, stai tranquillo, io non ho affatto parlato male dei parenti o delle persone morte, chiaro? Dicendo quelle frasi non hai rispettato le morti. Ma questa è una tua supposizione, amico mio, è una tua supposizione, hai capito? È una tua supposizione. E quindi quelli che sono finiti in povertà, che si sono ammazzati, è giusto che si siano ammazzati. Ho detto questo? L'hai fatto capire. Vabbè, ma l'ho fatto capire e che... Parenzo ti cercava... Ma sei al delirio, tu e se ti viene appresso quell'altro imbecille che studia a Roma o a casa a Roma, è un imbecille pure lui. Perché non ho affatto detto questo. No, ma non ho affatto detto questo. Dunque, se continui a dire che hai ragione, te ne puoi pure andare stasera. Perché non ho affatto detto questo. Se dai ragione a qualcuno che dice delle cose false, perché io non ho affatto detto questo, poi puoi prendere il telefono e te ne puoi andare. Perché non ho affatto detto questo, hai capito? Finché si discute. Su chi perde il lavoro? Io non ho affatto detto questo. Io ho detto che perdere il lavoro. Ho detto che perdere il lavoro. Perché è una stupidaggine. Vabbè, d'accordo. Vabbè, hai ragione tu. Dai, ciao. Well now, little mosquito, there must be well some reason for you that I just can't see. Well there is. Well you're right, son. You see, God put me here. Siamo qui con Andrea Scanzi. Buonasera. Buonasera a voi, ciao. Sei capitato male stasera, giornalista del Fatto Quotidiano, conduttore di Reputation, autore di un libro appena uscito che riguarda non la mia generazione, cioè ancora sì in realtà, perché io sono proprio sul bordo verso l'alto, caro Andrea. Non è tempo per noi, quarantenni, una generazione in panchina, pubblicato da Rizzoli. Tu che anni, quanti anni hai, Andrea, scusa? Sono del 74, ne ho credo 7 meno di te, più o meno 6, 74, 8 anni meno di me, ti rendi conto? 8 anni meno di me. Parenzo, hai capito? 74. 2 più di me. 2 più di me. Dunque 74 sì, quando siete entrambi sul libro, pensa, ci siete entrambi. Sì, è vero, è brutto libro. Ho letto qualche cosa, il crucianesimo, una cosa con un termine coniato una volta, credo da Luca Telese per la prima volta, forse non lo sapevi. E vabbè, ma cosa scrivi del crucianesimo, scusa? Ah, eccolo qua, crucianesimo, sì. Sì, scrivo che tu insieme a Travaglio avete sdoganato una forma di giornalismo che mette, non dico al centro di tutto, però incentiva l'ecocentrismo, e io diciamo è una cosa che, di cui mi intendo abbastanza, come credo anche tu. Uno dei re degli, considerati degli ecocentri, però l'ecocentrismo in realtà è uno dei motori del mondo, diciamola tutta. È come il sindaco di Londra Johnson, a un certo punto ha detto che cos'è che ha detto recentemente, che non l'invidia ma l'avidità, sì, l'avidità è il motore dell'economia. Da un certo punto di vista, se non ci fosse l'ecocentrismo bisognerebbe inventarlo, o no? Ma no, ma se lo dici a me è ovvio che sono d'accordo, però teniamo conto che noi siamo percepiti come la quintessenza dell'ecocentrismo. Mi risulta che tu sia addirittura in concorso per un premio. Ma cos'è sto premio? Non ho capito, sto premio la gente normale non sa niente, ma che è sta roba? No, è un premio folle che hanno organizzato su Twitter, che si chiama Scanzi 2013, dove alla fine verrà premiato la persona più egocentrica che si è distinta nel 2013 in rete, e in concorso ci sei tu. C'è Riotta, c'è Adinolfi, c'è Renzi, Severgnini e altri tre che non ricordo. Però mi perché tu hai vinto tutte le edizioni precedenti? No, in realtà l'hanno fondato perché io in qualche modo sono fuori categoria, quindi mi hanno in qualche modo dedicato il premio, è la prima edizione, però io avrei vinto troppo facilmente. Allora, a me hanno dato il premio come nome, però i contendenti sono 8 che sono leggermente meno egocentrici. Adesso ho capito quello che accade. Allora, caro Parenzo, Scanzi è stato protagonista nei giorni scorsi di una polemica furibonda, cioè in queste ore in realtà, con il nuovo responsabile della comunicazione del Partito Democratico, che si chiama Nicodemo. Francesco Nicodemo, che abbiamo conosciuto entrambi, caro Parenzo, a Perugia, al Festival del Giornalismo. E avete la mia solidarietà per questo. Perché abbiamo la tua no, non l'ho conosciuto, ma giudicare da quello che scrive non credo che sia meraviglioso conoscerlo, magari mi sbaglio. Allora, io devo ma dire... Ma che cos'ha questo Nicodemo che non ti piace, caro Scanzi? Ha scritto delle cose molto pesanti, giudizi forti, ma come è normale che sia, non credo che Andrea si faccia, in qualche modo condizionare da questi giudizi, su lo stesso Scanzi, su Travaglio, su Santoro, eccetera, eccetera. Elencati in un articolo pubblicato dal fattoquotidiano.it. Sostiene Scanzi che cosa? Che non può fare per questo il responsabile comunicazione di un grande partito? Qual è la storia? Sì, sostengo esattamente questo. Lui, questo Nicodemo, da un annetto e mezzo, ogni giorno su Twitter, insulta i giornalisti che ritiene sgraditi e sgradevoli, cioè quelli che anche solo osano dire che Renzi non è il messia. E questo è legittimo, su Twitter figurati, gli insulti si prendono dalla mattina alla sera, sono divertenti, sì. Anche pesanti, da solo peraltro, perché nessuno gli ha mai risposto. Nel momento però in cui un neo segretario come Matteo Renzi, peraltro un genio della comunicazione, un furbacchione, sì, uno che vuole essere il nuovo in tutto, decide di prendere questo qua, questo dileggiatore seriale, come responsabile della comunicazione, non una cosa qualsiasi, della comunicazione del nuovo PD, scegli questo qua e non sei più credibile, perché è come mettere Borghezio all'immigrazione. Addirittura Borghezio, Andrea. Come parallelismo sì, perché è inadatto. Cioè, se tu la cosa più gentile che dici è Travaglio è un fascio, Padellaro è ridicolo, io sono un povero patetico, Santoro è un pensionato che non ha mai fatto giornalismo, magari hai anche ragione, per l'amor di Dio lo puoi dire se sei un elettore normale, ma se tu sei responsabile della comunicazione non le puoi fare quelle cose, non le puoi dire, e lui le ha scritte fino a 2 giorni per cui non ho capito, tu chiedi a Renzi, Renzi secondo te dovrebbe rimuovere questo Nicodemo, perché uno come Nicodemo, che io conosco, che ha attaccato pesantemente in particolare un quotidiano, delle persone che si occupano di comunicazione, non può fare il responsabile di comunicazione, che per te che cosa deve essere? Una specie di, vuol dire, molto ecumenico? quantomeno disponibile alle critiche. Te lo immagini tu uno come Nicodemo quando dovrà gestire le interviste a Renzi? È ovvio che lui darà la priorità ai giornalisti embedded, ai giornalisti in qualche modo amici, ai giornalisti che non hanno mai attaccato. Non mi sembra la persona più indicata. Ripeto, va benissimo che lui ce l'abbia con me, non so per quali motivi, ma non è adatto ad avere quel ruolo. È la persona più lontana. Però Borghezio è forte come cosa. È come mettere Borghezio, vabbè, che poi uno scrivendo ovviamente utilizza dei paragoni anche forti, però è come tu dici. Non dico che lui sia uguale a Borghezio, dico che se Borghezio lo metto all'immigrazione è totalmente inadatto. Al tempo stesso io ritengo che Nicodemo alla comunicazione del più grande partito italiano sia un autore clamoroso di Matteo Renzi. È un bastonatore della stampa nemica. Lo è stato finora, spero che non lo sia da ora in poi, ma il suo pregresso per me è sufficiente per dire che non è adatto all'incarico che gli ha dato Matteo. Parenzo, sei d'accordo sul fatto che questo Nicodemo... Non vorrei danneggiare la reputazione di Scanzi, ma sono totalmente d'accordo con lui. Cioè, se a parti invertite fosse accaduto nell'altro campo, in quel di Forza Italia, no? In cui anche lì con i giornalisti... Però in realtà non è vero, perché è avvenuto anche in Forza Italia. Appunto. D'Alessandro, che è stato responsabile della comunicazione di Forza Italia, mi diceva di tutti i colori, giustamente. Esatto, e quando, esattamente questo volevo dire, quando avvenne lì... Il Partito Democratico fu il primo a dire: amici miei, i giornalisti fanno i giornalisti, o volete soltanto i giornalisti amici? Cioè, questo rafforza la tesi di Scanzi, per cui quando avvenne il caso di D'Alessandro, diciamo di Forza Italia, con metodologie analoghe, fu il Partito Democratico a difendere i cosiddetti giornalisti sotto attacco. Dopodiché io dico anche chi se ne frega, cioè io me ne farò una ragione qualora non volesse, qualche renziano non volesse intervenire al nostro consesso, e non sarà certo perché c'è il signor Nico, come si chiama la battaglia? Nicodemo, no, ma è un bravo ragazzo, io l'ho conosciuto, no, non è, no, che c'è, perché? No, ma è simpaticissimo, a me è simpatico. A me Nico, perché quando abbiamo, ti ricordi che siamo andati anche a mangiare una pizzetta lì a Perugia? Ma come Nico? No, ricordo bene tutto, come no? A me è molto simpatico, dopodiché se non gli... Però devo dire la verità, anche io non mi ricordavo tutte queste cose che Andrea ha messo in fila, cioè tutti questi, tra virgolette, insulti, attacchi forti, per carità, e poi anche noi ne facciamo ogni giorno, per cui non mi scandalizzano di certo. Certo, è come se qualcuno chiamasse me a fare il responsabile comunicazione di un partito, cioè certo qualche problema... No, è come se chiamassero te e ti mettessero alla FAO. Tu della FAO, ad esempio, siccome dici che i poveri devono continuare, oddio, a questa storia, la fame nel mondo, ma non ho mai detto questo. O come se ti mettessero alla comunicazione della Caritas, ad esempio, cioè il responsabile della comunicazione della Caritas è il signor Cruciani. Cazzo, cosa dici? Beh, sarebbe abbastanza, no, abbastanza improponibile. O se ti mettessero al Vaticano, che dici, Andrea? A gestire... No. Dico che il problema è proprio la collocazione, ma siamo tutti d'accordo su questo. Non è l'insulto in sé, ma figurati cosa vuoi che me ne freghi. Beh, però sembra un po', Andrea, scusa, sembra che hanno toccato Scanzi, Travaglio, un po' Santoro, ed è arrivato il Soccorso Rosso. Cioè, può sembrare una cosa di questo. Ma Soccorso Rosso, sai, io devo comunque segnalare, questa cosa secondo me era giusta da segnalare, perché quando uno attacca, e io sottolineo mille volte giustamente, Grillo che sfancula tutti i giornalisti, addirittura fa la colonna infame, io vedo tutta la stampa che attacca, sottolineo giustamente, altrimenti arriva Parenzo e si arrabbia. Io l'ho difeso, devo dire la verità. Io sul caso Oppo no, sul caso Merlo ne possiamo discutere parecchio. No, ma sul io in generale Oppo... l'ho difeso, perché in realtà al di là di qualche frase che è stata scritta infelice, come la storia del mantenuto da noi o altre cose ancora, cioè da che mondo è mondo, ci sono i giornalisti che attaccano gli altri giornalisti, i giornalisti che attaccano, ma dov'è il punto? Non ho capito. Grillo segnala delle frasi scritte dalla Oppo che secondo lui sono un'immagine non positiva dei 5 Stelle. Vabbè, ma questo è vero, questo è verissimo, Giuseppe, infatti quell'articolo conteneva delle cose quantomeno inesatte, però se tu addirittura lo trasformi in un post con tanto di foto, la colonna infame, il commento, l'insulto, quello è sgradevole. Ma Grillo, perché secondo te è un atteggiamento un po' fascista qualche volta? No, non userei mai quella parola su di lui, perché per me non è adatta. Ha un atteggiamento di totale permalosità e di totale refrattarietà alla critica. È la persona più permalosa dell'universo, e questo è una sua caratteristica che ha sempre avuto. Ma Pippo Baudo ieri ha detto da noi che sulla vicenda Oppo ha questo atteggiamento un po' fascistoide, cioè quello di o con me o contro di me. Poi usare fascistoide in realtà potrebbe essere anche comunistoide. Un attimo solo, torniamo tra poco. rendo isterico. Oggi alla Camera, Nuti 5 Stelle. Faraone è amico di un mafioso. Sentite. Sempre facile pure cucinare, che ci resto a fare. Vede, sta parlando con un cittadino che è del quartiere San Lorenzo Resuttana di Palermo. È un collega che è seduto fra i banchi di questo partito. Cosa faceva nel 2008 questo collega? Andava in casa di Agostino Pizzuto nel marzo del 2008 per un accordo di sostegno elettorale. Faraone alla Zanzara oggi cosa ha detto, caro Parenzo? Che oltre ovviamente ad attaccare Nuti dandogli dello squadrista eccetera eccetera, ha detto una cosa abbastanza clamorosa, cioè che Nuti nel suo sito Facebook, nel suo profilo Facebook, ha pubblicato l'indirizzo di casa di Palermo di Faraone e il numero della targa, perché era uno stralcio di un documento giudiziario, il numero della targa della macchina della moglie di Faraone, che è un compo... posso dire, scusa, dimmi su questo. Scanzi forse non sarà d'accordo, adesso tutti si incatteranno, diranno pare i grillini mi lincerà, però questa è la diretta conseguente, questo è un ingenuo questo deputato di 5 Stelle, ma è la diretta conseguente di quel signore, di quel comico istrione che da anni fa le liste dei nomi, giustamente quello, dei politici, a cui manca soltanto quelli sì, ladri indicati da Grillo, ma a cui manca soltanto il nome, la via, l'indirizzo, il codice fiscale e il numero di telefono. Cioè questa mania di fare le liste con i nemici, poi non ci si può stupire se questo deputato pubblica su Facebook e lo giudica una cosa quasi normale, quasi naturale, trasparente, mettere il numero di... è la conseguenza di quello che sta seminando quel signore lì. Quel allora, chiedo a Scanzi, lì. Andrea Scanzi del Fatto Quotidiano, conduce Reputation sulla 3, ha scritto un libro che ha come titolo Non è tempo per noi, quarantenni, una generazione in panchina per Rizzoli. Chiedo a Scanzi una cosa, ma non è che qualche volta questi deputati dici, tu hai votato Grillo innanzitutto? L'ho votato sia alla Camera sia alla, alla Camera che al Senato. Ti sei pentito? Esatto. No, se me lo chiedevi a marzo-aprile la risposta sarebbe stata probabilmente sì, perché era veramente imbarazzante vedere soprattutto Lombardi e Crimi, una quantità di errori allucinanti. Credo che dalla vicenda Rodotà in poi abbiamo sì fatto degli errori, ma siano più i pregi che i difetti da maggio in poi. E che i pregi per esempio quali sono? Ma alcune battaglie, innanzitutto sono gli unici che fanno opposizione a questo governo caricaturale, gli unici, vera, perché l'opposizione dire che la fa Forza Italia mi viene da ridere. Lega non esiste più, SEL sono in 5, quindi sono gli unici che la fanno. La battaglia in difesa della Costituzione mi piace, l'articolo 138, il caso Shalabayeva l'hanno tirato fuori loro, il caso Cancellieri sono stati gli unici ad andare avanti fino in fondo. Questo è vero. Si sbattono, si impegnano. Sono pieni di contraddizioni, c'è gente che crede alle sirene, c'è quello che crede alle scie chimiche, sono immaturi, però in questo Parlamento qui a me come cittadino fa piacere che ci siano, perché altrimenti avremmo questa gigantesca larga intesa e non avremmo nessun altro. Sì, però adesso uno che pubblica come Nuti l'indirizzo di casa di Faraone, al di là della vicenda Faraone, uno se capisci che cioè, non si può nemmeno dire però in Parlamento questo qua non è indagato ma va bene lo stesso, cioè capisci che siamo un po'. Ma certo, ma figurati se do ragione a Nuti se ha fatto veramente questo, non lo sapevo, me lo dite voi, è totalmente errato. Peraltro io ho sentito il discorso di Nuti alla Camera, l'avevo condiviso in larga parte, non sapevo che avesse fatto questa cosa. Cioè anche per te Faraone non va bene come componente della segreteria, perché? Perché ha frequentato una volta uno che poi è diventato mafioso, cioè qual è il punto? Allora, la vicenda a cui fa riferimento Nuti non è una vicenda, è una vicenda che non ha avuto delle implicazioni giuridiche e giudiziarie su Faraone, quindi finisce lì. Come la racconta Nuti e come la scriviamo anche noi stamattina sul Fatto Quotidiano, c'è questo che va tranquillamente a incontrare una persona che fa parte, gestiva in qualche modo l'arsenale di un clan della mafia, si danno del tu, in qualche modo si fanno delle promesse reciproche che poi non può mantenere perché non viene. Beh, lui dice che non sapeva fosse mafioso, ovviamente. Va benissimo, infatti sono due versioni. Se è vera la versione di Nuti è inquietante, se è vera quella di Faraone siamo tutti contenti, però è comunque una notizia perché quel dato c'è, quella registrazione esiste, come esiste la registrazione video in quel caso dell'anno scorso di Striscia la Notizia. Non è che Faraone lo scopriamo adesso. No, lui dice che non ha mai chiesto voti in cambio di assunzioni, dice che ovviamente in Sicilia uno questa è una frase un po' strana che ha detto oggi. In Sicilia comunque facendo politica si ha a che fare con persone un po'. Sappi questo, dimmi, sappi questo. La deriva violenta i grillini non sono violenti ovviamente, ma la deriva violenta del grillismo sono i forconi. Cioè i forconi che sono prepolitici, di mezzo a cui ci sono dei criminali veri infiltrati, c'è del malessere pazzesco vero, cioè gente che sta proprio davvero male, sono il potenziale manganello di quello che viene detto in Parlamento dai grillini. Cioè se ormai è normale che questo qui scriva l'indirizzo di un suo collega deputato che può aver commesso e non lo ha commesso le più gravi cose del mondo, ormai siamo, e sembra quasi naturale, sembra una cosa normale. Poi non ci si può stupire. Andrea, tu ti fidi di uno come Casaleggio, che non, di cui non, diciamo, non sentiamo mai una parola, eccetera, che è però uno dei leader del movimento, perché tu hai votato pure io, per carità, Ma guarda, personalmente non mi pongo il problema, perché non mi devo fidare, nel senso che non lo devo frequentare o conoscere. Non ne penso le cose, non ne penso bene perché? Ma anzitutto l'ho incontrato una volta e non è stato un incontro particolarmente bello, cioè non mi ha convinto. Mi aveva proposto di fare un libro con lui e Grillo 2 anni fa, che io non ho voluto fare perché mi sembrava di implicarmi troppo in cose politiche. E poi mi sembra che lui rappresenti l'ala più destrorza, reazionaria e inquietante di un movimento che secondo me senza Casaleggio oggi vivrebbe molto meglio. Addirittura? Peraltro mi dicono che lui mi detesta, proprio neanche troppo cordialmente come detesta il Fatto Quotidiano, la scomunica di un mese e mezzo fa in realtà fu sua. Di Grillo ne prendo atto, ma posso dirgli che la cosa è molto reciproca su Casaleggio. Però scusa un attimo, perché dici cioè tutte le cose un po' destrorse secondo te sono di Casaleggio? Cioè la questione degli immigrati, quando Grillo disse quella cosa clamorosa, noi lo facciamo soprattutto per una questione elettorale, la nostra posizione sull'immigrazione clandestina, è roba di Casaleggio? È una cosa abbastanza nota che Grillo ha delle impostazioni, almeno all'inizio veniva più dal socialismo, mentre Casaleggio è uno che è sempre stato dichiaratamente di destra, si candidò anche anni fa in una lista legata in qualche modo al centrodestra, che non è un reato, intendiamoci, però loro due sanno questa componente qui. Quello un po' più che tira a sinistra era, perché neanche più era Grillo, quello che è più palesemente di destra è Casaleggio. E Renzi lo voteresti? Ma mai nella vita. Mai? Perché mai? Perché mai? Perché è un paninaro cresciuto. In fin dei conti è uno della tua generazione, no? Ho capito, è anche della mia. Della mia generazione, che vuol dire? Lo voto? No, Alfano non te l'ho chiesto perché non te lo potevo chiedere. Però, scusa, Renzi, qualcosa di scanziano ce la potrebbe avere. In fin dei conti l'egocentrismo è anche suo. Ma sì, ma non è che l'egocentrismo necessariamente sia un pregio, magari è un difetto anche per me. Renzi nel libro ne parlo molto, credo che incarni benissimo la mia generazione, la incarnano i pregi. Però mai nella vita, mai nella vita potresti... Allora, al momento no, perché anzitutto secondo me non c'è niente di sinistra e io ho ancora questo difetto di essere, credo, ancora una persona. Ma in che cosa sei di sinistra? In che cosa sei di sinistra? Io questo... Per esempio, in che cosa? Ma non lo so, anzitutto nei gusti musicali, guarda, nei gusti cinematografici e nelle letture. Non lo so se nella politica lo... Senti, facciamo ancora un gioco. Gasparri dove lo vedi bene se non facesse politica? Oddio, cioè qui rischio. Gasparri dove lo vedo bene? Di sicuro non in Parlamento. Dove lo vedo no, bene, se non Gasparri facesse politica, fare cosa? Oddio, non lo so, Gasparri. Ma l'usciere, che può fare uno? Biancofiore? Gasparri. Biancofiore? Biancofiore è la capocurva di una qualsiasi squadra di calcio, una hooligan. Ravetto? Sto non è male. La Ravetto, oddio mio. Dai, dilla tutta. No, è difficile, mi viene la Ravetto che può essere, non lo so. Il membro di un club fighetto, di queste cose proprio da ricconi che giocano a canasta, che fanno queste cose. Proprio queste cose. Anche tu ce l'hai con De Luca, il nostro idolo, il sindaco di Salerno, anche tu pensi che sia un personaggio poco raccomandabile? Diciamo che ci sono motivi per pensarlo, e peraltro è uno dei più grandi sponsor di Matteo Renzi. Cioè Renzi vuole rottamare un partito e c'è accanto uno come De Luca, e è un'altra contraddizione notevole del signor Renzi questa. Ma tu per la prima volta per chi hai votato, quando hai votato la prima volta? Era il 90... Oddio, quando ho votato la prima volta? Sì, votai per il centro-sinistra perché fu la prima volta in cui scese in campo Berlusconi, e allora mi toccò votare Occhetto, che sicuramente non mi esaltava, però... Era... Hai votato i progressisti? Cioè, votato... Sì, poi ho votato nel 96-2006, ho votato Prodi le due volte che ha vinto, e poi negli ultimi anni non mi sembra. Ho votato una volta Di Pietro e l'ultima volta ho votato il Movimento 5 Stelle. Cioè, a me, quelli che dicono, Parenzo, quelli che dicono, io non dico per chi voto, perché uno deve dire sempre per chi vota, perché il voto non è sopporto. Che... No, ma perché il voto non è che il voto è un timbro che tu hai addosso e che ti lega per sempre a qualcosa. Uno può avere anche votato Grillo e avere la testa lì per mille motivi, più diversi, più disparati, e avere la testa libera per criticare, per approvare, per dire certe cose. Non c'è una parrocchia. Io amo quelli che non hanno una parrocchia. Che non hanno una parrocchia e che non devono dipendere da nulla, che hanno la testa sgombera di poter dire quello che vogliono sempre. Ma sicuro, sempre. Io sono tra per cui non mi accusare di dire che io ho detto che le persone povere devono morire e devono restare povere, perché non l'ho mai detto. Io ho detto che la povertà esiste, è esistita ed esisterà sempre. Ma è normale che sia così, e che i governi devono lavorare per ridurre la povertà. Questo l'ho detto anche ieri, per cui è inutile. No, non hai detto questo. Comunque è banale dire che la povertà esisterà sempre, sì, d'accordo. No, perché qualcuno ha l'ambizione di dire noi eliminiamo la povertà. C'è un partito che ha fatto addirittura una manifestazione. No, quella roba del PD fu ridicola, ma non era quello l'obiettivo, eliminare la povertà. Non era questo. Hanno sbagliato, ma non era questo. Giusto dire per chi si vota, dopodiché se un giornalista o qualcun altro non vuole dirlo, posso rispettarlo, non è che mi spavento se non lo dice. E tu ieri ti sei arrabbiato quando io ho detto, e lo ripeto, che comunque il voto è in quel momento lì è espressione di quel che senti e di quel che sei, e quindi è chiaro che io, quando ho detto che ho votato Rosa nel pugno, che ho votato Partito Democratico e poi basta, perché altro sì, in passato PDS e DS, tu dici chi vota Berlusconi cos'è? E chi vota Berlusconi vuole quella roba là, vuole quella roba là. Ma non è vero, ci sono tante cose. Guardi, io ho votato Berlusconi tante volte, ho votato Berlusconi tante volte per i motivi più disparati. Tu vuoi Grillo semplicemente perché tu adori il casino, perché tu sei come Joker di Batman, ti ricordi il Cavaliere Oscuro? Quando il Cavaliere Oscuro dice Joker, dice I am the agent of chaos, quindi a te appena c'è il chiaramente non farai... Non farai mai il portavoce della sala stampa del Vaticano, per tornare all'esempio di prima. Per fortuna no. Per fortuna sarebbe assurdo, come mettere come il capo della comunicazione del PD simpatico di oggi, il nostro amico Perpugnani, Nicodemo, non cominciare a storpiare i nomi come Fede, Il nostro amico Nicodemo, in quel ruolo lì tu non farai mai il capo della sala stampa del Vaticano. Ma sì, ma io sono un cinico, me ne fotto, alla fine non me ne frega niente di fare questo mestiere perché l'Italia vada meglio, ma chi se ne frega? Voglio un'ultima domanda per Scanzi, domanda per Scanzi, ma i forconi sono di destra? Sì, o meglio, all'inizio no, credo che adesso ci siano più istanze di destra che di sinistra, c'è entrato dentro di tutto, c'è entrato dentro le curve, c'è entrato dentro Casa Pound, poi è chiaro che quando tu protesti contro un governo, contro lo Stato, c'entra tutto, però mi sembra più orientato a destra che a sinistra. Quanto hai goduto oggi per la sconfitta della Juventus? Lo posso dire? Tanto. Ciao, tanto, grazie. Tanto. E ho goduto tanto anche ascoltando Conte. Lo Conte so, ma c'è quel pezzo di Conte fantastico. Guarda, l'hai sentito sicuramente. Senti. Niente, mi ha fatto arrabbiare l'arbitro perché ieri ha sospeso la partita perché era dangerous per i calciatori. Oggi tutto un tratto non era più dangerous. Questo era un dangerous, va bene. No, c'era un altro pezzo però fantastico. Non era questo su dangerous, è un errore di italiano. Vabbè, ma nel calcio succede di tutto. Ciao Andrea, presto. Ciao. La zanzara è quell'odioso insetto. Io detesto quasi tutto di tutto questo teatrino ignobile. Mi ha beccato, gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo fia, ma lei gira sempre intorno a me. E balli su twist, e balli su twist. Alessandro da Chieti, intanto vanno sotto processo, caro Parenzo, tutti quelli che organizzarono il film porno con la nostra amica Tommasi, sono stati rinviati a giudizio, il manager degli attori del film porno di Sara Tommasi per violenza sessuale di gruppo, perché la Tommasi, famosa gangbang. Perché la Tommasi era strafatta e incapace di intendere quando girò il porno, che in realtà, insomma, non poveretta, era granché, diciamo la verità. Tu l'hai visto? Sì. Beh, vergognati. Ma vergognati tu. No, io non l'ho visto, non ho neanche mi viene in mente di vederlo, vergognati. Che le più volte non lo vedi mai. Spegni la luce, passa dalla TV. Mario da Genova. Buonasera Cruciani. Vai. Volevo sapere come lei fa a fare una trasmissione con un soggetto che lei definisce più volte coglione. Ma chi? Come si chiama? Parenzo. Mai detto che è un coglione. Come no? Mai ma non detto. Dica, ma come no? Mai ma l'ha detto. Detto più, ma l'ha detto più volte. Mai detto. Ma non mai neghi detto. L'evidenza, non neghi va l'evidenza. E allora va bene, l'ho detto. Parenzo, no, l'ha mai detto? No, no, ha detto non dire cretinate, alle volte non condivide il mio lucidissimo pensiero, ma questo ci sta, insomma anch'io non condivido il suo, quindi non è questo il punto. Ma guardi che ha detto un coglione più volte, comunque non importa, io volevo dire solamente questo. Cosa? Questo, questa è la mia osservazione, che una persona normale non fa una trasmissione con uno che reputo deficiente o coglione. Ma è sbagliato l'assunto. Cioè, perché? Mi spieghi. Perché non lo considero coglione. Cioè è sbagliata la premessa, scusi. Cioè, come è sbagliata lo considera? La premessa. Scusi, ma che importanza? Come lo considera? Le ho fatto una domanda. Da che punto di vista? Lo considero una persona intelligente, una persona con cui si può anche essere in disaccordo, eccetera, ma certamente non lo considero un coglione. Lo tratta sempre come una merda. Ma che c'entra? Ma non sono, queste sono discussioni che avvengono alla radio. Nicola da Pescara, su, Nicola. Ciao Cruciani, buonasera. Dimmi. Vi volevo fare i complimenti ironici, ovviamente. Finalmente sì. Ieri, grazie al test Omega, qualcosa sì. del genere, avete nominato l'innominabile. Sì. Carlo De Benedetti, che sì. nella vostra trasmissione, non si sa per quale motivo, viene nominato velocemente e poi passa via. Ti posso fare un'obiezione? Perché da quando è stato iscritto nel registro degli indagati, insieme a quell'altro campione di Passera, per strage, Olivetti, 40 casi di tumore, sì. anno 96-2006, lo devi dire tutti i giorni, Cruciani. Come ma non fai mi interessa dirlo tutti i giorni, no, guardi. Interessa a noi. Interessa a lei, utenti, tu devi ricordare ogni giorno. Tu che devi ricordare, ma io ricordo il cazzo che mi pare. Ma io ricordo quello che voglio, amico mio. Non ricordo no, quello che vuoi mio, tu. No, no, no. Non ricordo tu quello che vuoi tu. Hai le palle con le cause di Berlusconi. Ma per chi? Anni. Ma chi? Sì, tu e Parenzo di Berlusconi parlate sempre. Parlate ogni tanto di Carlo Di Benedetti, se no pensiamo tutti che siete dei servi. E questo dobbiamo pensare. I potenti, senti, amico mi mio, paura. Io non sono servo no, di nessuno, né di De Benedetti, né di Benedetti, né di Berlusconi. Non me lo dici, io lo dico quanto mi pare, se no, se, no, non, no, ti va, rispondi, se non ti sta bene, rispondi. Attacchi il telefono. Ma io rispondo ma benissimo. Ma rispondi a quello che ti ho detto io, perché sto... non parli mai di De Benedetti? Sentiamo. Ma non è vero, ma bisogna vedere come e quando uno ne deve parlare. Perché non parli mai di De Benedetti? Perché non parli mai del portiere sotto casa mia? Perché non parli mai di Passera? Noi ci occupiamo anche. Cruciani, sai quando parli di De Benedetti tu? Quando, soltanto dimmi. Quando dovete, anzi voi, perché ci metto anche quella cucurbitacea di Parenzo che hai vicino, sì. se non sa cos'è una cucurbitacea glielo spiego io. Spiega, allora, non siamo così intelligenti come parli, te. Quando parli di De Benedetti, quando devi quando? Ricordare? Soltanto che ha vinto una causa mega milionaria con Berlusca. Guarda, se grazie, tu pensi... Grazie ai giudici... Amico mio, se tu pensi... Amico mio, dimmi, se dimmi. Tu pensi che io sono al soldo di De Benedetti o che no, voglio no, no, evitare o che voglio tu, evitare o che voglio evitare di parlare di Benedetti, tu sei proprio fuori di testa, cioè ma sei completamente fuori di testa. Ma non mi sembra, perché lo nomini a mezza bocca. Vabbè. Una volta l'anno, dillo tutti i giorni, De Benedetti è iscritto nel registro degli indagati. Ma no, non lo dico perché non lo dico di nessuno, perché non lo dico di nessuno, hai capito? Hai parlato delle mignotte di Berlusconi per anni. Questa è una cosa seria e grave, ci sono famiglie che hanno avuto dei morti. L'hai detto. Dove lui era amministratore delegato. Ed è stato indagato, eccetera. L'hai detto tu, così sei contento. L'altra eccellenza italiana, che è Corrado Passera, è indagato. È indagato, benissimo. Tu sai che cosa significa indagato, fenomeno dell'umanità? Tu lo devi ricordare. Sai cosa, scritto, sai cosa detto, significa indagato? Sai cosa significa indagato? Furbo, no, fai furbo tu. Ho detto che è iscritto nel registro degli indagati. Vabbè. Io lo so benissimo cosa significa. Ah, ecco, appunto. Siccome tu ti ostini, devo pensare che sei un servo. Sono non un servo. Allora sono un servo. Allora sono un servo. No, non lo so se lo sono sei. Un servo, lo te lo dico io che sono un servo. Sono un servo. Che ti devo dire? Sono un servo. L'hai detto tu. È indagato nella vicenda dell'intossicazione dell'Olivetti. Lui, Passera, eccetera. L'hai detto? Sei contento? Ciao. A me quelli che mi dicono tu devi parlare di questo mi fanno impazzire, mi fanno impazzire. Caro Parenzo, con noi abbiamo una giornalista della RAI, del TG3, che in Spagna è diventata un personaggio, perché vogliono addirittura ritirare il libro pubblicato in italiano ma tradotto in spagnolo. Trasmissioni televisive, polemiche, la Chiesa messa in mezzo, partiti politici, adesso non esageriamo, però insomma vogliono ritirare questo libro. Sai di chi parlo, Parenzo? Beh, io dico che nessun libro si deve ritirare, questa è ovviamente la prima cosa. Nessuno. Costanza Miriano è con noi, buonasera. Eccomi, buonasera. Eccoci, giornalista della RAI, autrice del libro che ha un titolo, come dire, controverso, è addirittura il suo primo libro pubblicato in italiano, dal titolo Sposati e sì, sottomessa, giusto? Esatto. Perché la donna deve essere sottomessa, signora Miriano? Intanto volevo dire che la frase è tratta da San Paolo, dalla lettera agli Efesini, quindi casomai c'è un concorso di colpa. Ma sottomessa perché la tentazione femminile di solito è quella del controllo. Invece? E quindi essere sottomessa significa non avere paura di fare un passo indietro, cercare di rinunciare a questa tentazione del controllo e diventare femminile, accogliente, cosa che forse con l'emancipazione è stata, cioè diciamo con le battaglie femministe è stata un po' dimenticata. Secondo te la donna è più donna se è sottomessa all'uomo? Sottomessa nel senso di messa sotto come un fondamento, quella che regge, sì. In questo senso sì. Servire l'uomo in qualche modo, ma servire in senso, cioè di mettersi a disposizione dell'uomo. Sì, come ha detto il Papa, serve ma non schiave, sì. Vabbè, servire sì, schiave. Come una serve un bambino quando lo tiene nella pancia, lo allatta, servo, un servo che fa vivere gli altri, sì. Però sottomessa ha un significato molto molto preciso, cioè non è che cioè per te ci sono il ruolo dell'uomo e della donna, restano due ruoli diversi, cioè il ruolo vero della donna è quello di essere, come dire, in secondo piano rispetto all'uomo, in secondo piano rispetto, come dire, alla società, dico, più che in secondo, sotto, fondamento, io la vedo come una cosa positiva. Comunque San Paolo prosegue la frase dicendo agli uomini di morire per le donne, quindi non è che a voi vada molto meglio, cioè? In realtà. Cioè dice, voi spose siate sottomesse ai vostri mariti e voi mariti siete pronti a morire per le vostre spose, quindi perché in realtà il difetto femminile invece è quello dell'egoismo, cioè la tentazione maschile è quella di tenersi sempre qualcosa per sé, di risparmiare, di insomma avere un angolo così. Scusa, l'unica gara di emancipazione della donna quale può essere allora? L'unica... Nella Chiesa, diciamo nell'ottica cristiana, la gara è tra morire e lavare i piedi, più o meno. Cioè diciamo, tra morire e lavare i piedi degli uomini? Sì, nel senso è l'ottica del servizio. In realtà davvero il difetto femminile è quello del controllo, di manipolare, di tenere sotto controllo le persone. In realtà noi abbiamo il talento dell'educazione e quindi di formare le persone, a volte tendiamo a formattarle. E fare un passo indietro fa miracoli, posso garantire, ho venduto credo sulle 40.000 copie, ho ricevuto centinaia, forse ormai migliaia di lettere di donne che hanno ritrovato... Cioè la donna che fa carriera non è la vera donna, cioè la vera donna secondo te è quella che resta sottomessa all'uomo? Ma io veramente non la metterei sul fatto della carriera o no, cioè non è un fatto di organizzazione pratica della vita, io comunque di lavori ce n'ho in realtà anche due perché faccio la giornalista e di notte scrivo, non credo che sia quello che comprometta l'atteggiamento di accoglienza, di servizio. Cioè non lo so, per esempio, no? Si possono accettare degli schiaffi da un uomo, secondo te? Beh no, questo no. No, questo no, non, quello è un aspetto patologico. In realtà il libro è nato davvero per un momento... Ma al di là del libro, si possono accettare delle No, cioè no, neanche la Chiesa lo dice questo. Nessun tipo di violenza si può accettare. No, cioè il tradimento? Il tradimento... Cioè la donna lo deve sopportare, secondo te? Cioè nel perdono di cui parli tu, no? La donna deve perdonare, mi sembra che tu dici o scrivi. Beh, diciamo che è una scelta personale. Credo che quando un vaso si è rotto, poi insomma rimane sempre incollato ed è difficile che torni come prima, però sì, è possibile anche perdonare un tradimento, è possibile. No, in generale, però una donna deve... Cioè voglio dire, io non capisco, quando uno dice sottomessa, significa che c'è una situazione in cui uno è sopra e l'altro sotto. C'è poco da fare. Ma sotto nel senso che regge, che sostiene, che incoraggia, che rimanda all'uomo un'immagine positiva, che c'ha invece che dire ecco va bene hai fatto tutto però questo manca ancora, certo se avessi fatto questo però vabbè grazie non importa, metti a posto i calzini, metti a posto le scarpe, metti a posto questo, invece che dire così, dire mi fido di te, mi fido di quello che fai, di quello che dici, di come sei. Tu dici obbedisci e perdonalo, l'uomo deve essere, bisogna ubbidire e perdonare. Ma no, ma l'uomo deve morire, quindi non è, cioè l'uomo che si vede rimandata un'immagine positiva di sé, si alza dal famigerato divano nel quale giace di solito riverso, e questo è il famoso. A te piace divanauro. Servire? Servire l'uomo? Si alza per morire per la sposa, per impegnarsi in famiglia. Di solito l'uomo dall'età preistorica si rifugiava nella caverna, oggi magari davanti all'iPad o qualcos'altro, però tende sempre a svicolare. Invece un uomo che si vede accolto con un pregiudizio positivo, che finalmente interrompe la guerra che c'è spesso nelle case, che sembra più a letto col nemico che una storia d'amore. Ma ti piace servire l'uomo o no? Ma servire nel senso come servo, come ho allattato i figli, come ho, come servire, beh, per esempio servire a tavola mi piace, io ho trovato assurda quella polemica. Della Boldrini, sì. Sì, sì, cioè è un privilegio dar da mangiare le persone a cui si vuole bene, servire in questo allora, senso sì. Diciamo che, Parenzo, in Spagna c'è addirittura chi pensa che questa sia istigazione alla violenza, Questo hanno pensato, capito? Istigazione alla violenza, capito? No, ma guarda. Dimmi, Parenzo, dimmi. No, Costanza, che saluto, ho letto il suo libro ancora tempo fa, quando ero alla Guerra dei Mondi, glielo dico con grandissimo affetto, libro bellissimo, stupendo, di cui non condivido neanche una riga, ma è talmente, come dire, senti come lo dice, angelica e credente, perché lei crede, e io la posso potrei dire che è una persona reazionaria, e magari lo penso, potrei dire che ha in mente un ruolo... Ma infatti lo sto dicendo, dico, potrei dire, e lo dico, che è reazionaria, potrei dire che ha un'idea, una concezione della società che non esiste più, ma è talmente distante da me, lei lo dice con talmente tanto amore che io la abbraccio, perché era tanto che non sentivo cose più reazionarie di queste. Scusami, cose... Costanza, tu che vuoi sottomessa alla donna, però... ma elimineresti l'aborto, per esempio, la cancelleresti la legge sull'aborto? Certo, sì, sì. Ah, la cancelleresti secondo certo, te? Certo, oggi. Cioè lo proibiresti l'aborto tu? Sì. Sì. Cioè dunque se una donna rimane incinta dovrebbe essere costretta a fare il figlio. Dovremmo essere tutti costretti ad aiutarla ad accogliere questo figlio. Però è lei che decide poi, no? O non deve decidere lei? Adesso, a parte che adesso ci sono molti mezzi per decidere anche prima, e purtroppo invece la legge è ancor più la RU486. Ma se tu resti incinta, tu elimineresti la possibilità di abortire? Sì. La elimineresti? E uno se non vuole il figlio che fa? Se lo tiene lo stesso? Per esempio lo può abbandonare dopo la nascita, come... Come abbandonare dopo la nascita? Si può lasciare in ospedale senza riconoscerlo. Ho capito, ma se uno... Quante famiglie sono in fila per l'adozione. E se uno non vuole abortire deve essere... Cioè se non vuole avere questo figlio comunque deve portare avanti comunque la gravidanza e deve essere costretto dallo Stato a farlo. Io rivolterei la cosa, e siamo noi che siamo costretti ad aiutare questa persona. Ho capito, ma se quella non vuole portare per 9 mesi una persona in grembo... Comunque io di questo nel libro non parlo. No, vabbè, comunque, ho capito. No, io penso che il deve essere costretta, deve essere costretta a partorire. Penso che il bambino sia un essere umano, una persona, e quindi sì. Una volta che viene concepito, la persona deve essere costretta a partorire. Sì, siamo costretti ad aiutarla ad accoglierla. Ad accogliere. Sì. Un attimo che abbiamo la borsa. Buon lavoro, mi raccomando, mantenete sempre il vostro frufru, eh. Zanzara! C'è una zanzara. Dite minchiate a palate e non si ride più delle cazzate che dite. Sei una capra! Franco, provincia di Agrigento. Buonasera. Dimmi, Franco, dimmi. Posso parlare? Vabbè, Francesco da Bologna. Francesco? Va così. Alessandro da Chieti. Emanuele da Biella, avanti. Buonasera. Dimmi. Sì, signor Cruciani, senta, io sento che lei sta parlando del movimento dei Fauconi dandogli una luce negativa, vabbè, insomma. Io non gli sto dando una luce negativa. No, vabbè, allora ok, chiedo scusa. Ma non è questione di luce negativa. Io ho detto maledetti Fauconi perché bloccano le strade, c'è un sacco di gente che c'è un sacco di gente che si muove ogni giorno, che lavora. Ok, mi scusi, non volevo parlare di questo comunque. Cioè, lunedì scorso lei l'ha presentato come un momento così fatto di Tarantelli, Tocconi, e per dimostrare questa tesi ha detto che all'interno del movimento ci sono molte persone contrarie all'euro. Allora, senta, essere contrari all'euro, non lasciamo stare chi sono e cosa fanno i fortuni. Ma io non ho detto come cosa negativa, ho detto che c'è di tutto, persone contrarie all'euro, persone rovinate dalla crisi, eccetera. No, non ho detto delle cose negative, uno è legittimo... Ci sono gli anti-euro. Ma non è vero, è legittimo essere contro l'euro, è legittimo essere dalla parte di chi vuole l'uscita. Io la seguo spesso e non mi sembra che lei dica in modo molto convinto che è legittimo essere anti-euro. Lei ha detto più no, non è legittimo. Penso che debba essere arrestato chi è contro l'euro. Ma le pare possibile una cosa del genere? È legittimo essere contro l'euro. D'accordo? Sì, benissimo. Comunque, lo dico anche per chi ascoltano, perché è molto di moda questa cosa, far passare chi è contro l'euro come un complottista, uno stramboide. Non ho detto questo e non lo penso, è pieno di gente che conosco, amici miei che sono contro l'euro, vorrebbero l'Italia fuori dall'euro, non penso che siano dei dottor Stranamore. Sono contentissimo per lei. Ci sono invece tante altre persone che passano ancora oggi in televisione a parlare di uscita dall'euro, di lotta contro l'euro, come se fosse una cosa da pazzi. Vabbè, allora? Invece non lo è, perché è una tesi sostenuta da i maggiori economisti del nostro pianeta. Vabbè, sì, d'accordo. Allora, chi non lo pensa è un criminale, d'accordo? Allora, passiamo dalla parte opposta. Chi invece pensa che sia sbagliato uscire dall'euro è un criminale, va bene? Prego, scusi? Chi pensa che è sbagliato uscire dall'euro è un criminale, va bene? No, io non ti ho detto questo, però... È un cretino, vogliamo dire questo? È un cretino? È un disinformatore. È un disinformatore, benissimo. Perché? Cioè, chi non sostiene che bisogna uscire dall'euro è un disinformatore. Cioè, l'unica verità rivelata è quella che bisogna uscire dall'euro. Chi è contro questa roba qui è un disinformatore, un venduto, un pagato non so da chi, ma lei è fuori di testa. Lei è fuori di testa, sì o no? Scusi, ma come si permette? Non l'ho capita questa. Stavo soltanto cercando di dire il fatto che l'euro sia un'autentica sciagura per il continente europeo è una tesi sostenuta dai più autorevoli. E io sto aggiungendo, dunque, chi non sostiene... Ma le deduca lei, le faccia lei. Sì, no, ma l'ha detto, l'ha appena detto lei, è un disinformatore. Chi non pensa questa cosa... Perché dire che uomini, persone come Stiglitz, Krugman, quando era ancora vivo... dicono cose senza senso, perché spesso la lotta all'euro, chi è contro l'euro è rappresentato come persona che dice cose senza senso, è un minimo disinformante. Cioè, se non lo danno il premio Nobel, queste persone non scrivono sul New York Times perché appunto dicono fandonie ogni 5 minuti, quindi io lo ritengo decisamente scorretto presentare l'opinione di queste persone. Dunque? E dunque dire che chi è contrario... data di informazioni non corrette, ma mi sembra una cosa così strampalata. Va bene, grazie Emanuele, grazie. Buonasera. Io voglio farvi sempre ascoltare questo Calvani, Governo con le forze dell'ordine, governo provvisorio con le forze dell'ordine, uno dei leader della protesta del 9 dicembre. Se ne devono andare, assolutamente, chiederemo immediatamente che venga fatto un governo istituzionale presieduto da un componente delle forze dell'ordine o qualcosa del genere, il Presidente della Repubblica scioglie il Parlamento e indice elezioni entro 6 mesi, contemporaneamente deve essere fatta immediatamente una legge elettorale, ma non da questi, immediatamente dal governo istituzionale che viene fatto, non vogliamo trattare con questi qua, non ci tratteremo più, questi hanno distrutto il nostro Paese. Dal 9 dicembre in poi succederà che il nostro paese, l'Italia, il popolo italiano, i cittadini italiani, in maniera compatta, divisa, lotteranno ad oltranza per riprendersi la propria sovranità, per riprenderci la nostra divinità, dignità, e per riprenderci il prestigio che ci è stato tolto da una classe politica di parassiti, di farabutti e di delinquenti. Alfredo da Verona, buonasera Alfredo. Sì, buonasera. Dimmi. Allora io volevo intervenire riguardo questo discorso delle donne, ho sentito quella signora che ha scritto quel libro. Sì, sei ancora con noi, dimmi. Sì, niente, volevo dire che finalmente sento una voce un po' fuori dal coro nel campo femminile rispetto a... Cioè, a lei piacciono le donne sottomesse? No, allora, sottomessa, io penso che gli uomini e le donne siano molto diversi, abbiano due ruoli diversi nella società nella famiglia. E dunque, sottomessa è una parola un po' forte, in effetti, che ha un'accezione un po' negativa, forse. Beh, sottomessa direi. No, però, come diceva Nietzsche, l'uomo è deputato alla guerra, la donna al riposo del guerriero, il che non vuol dire che questo sia una cosa... svalutante per la donna. Miriano si ritrova in questa definizione? In quella no, però io volevo far notare che in Spagna non è stata la parola sumisa che ha dato fastidio del mio libro, perché ci sono fior di libri tipo Diario di una sumisa, Instrucciones para ser sumisa, adesso non parlo lo spagnolo, ma in realtà è Casate, Sposati che dà fastidio, cioè l'idea che una sia sottomessa al proprio marito. Vabbè, è questo insomma. Che non, cioè in realtà è il vero nemico dell'uomo contemporaneo è che cosa? è pensare di non essere autodeterminato, cioè obbedire a qualcuno, non essere autodeterminato. L'uomo contemporaneo vuole pensare di decidere tutto. Beh, ma non è una cosa negativa. Ma ci sono alcune cose, tipo per esempio essere maschio o femmina, come diceva l'ascoltatore, che siamo diversi, non possiamo deciderlo noi. Cioè, secondo lei la donna è naturalmente sottomessa all'uomo? Ma sottomessa nel senso di accogliere, allora diciamo, ha il genio della relazione, diceva Giovanni Paolo II. Edith Stein diceva, deve tenere la luce accesa. Si possono trovare mille modi per dirlo. Sì, però ma diciamola, proprio... diciamola in maniera comprensibile. Cioè, la donna nella sua, come dire, nella sua concezione, deve essere. Come si può dire? Deve, diciamo che se è accogliente è felice, se non uccide il bambino che è in grembo è felice. Io ne conosco tantissime che hanno abortito e poi sono rimaste infelici per tutta la vita. Cioè, non è una questione di dovere, è una questione di felicità, è la nostra vera natura. Ma il femminicidio esiste? Il femminicidio, cioè l'omicidio in cui, a me la parola non piace, l'omicidio in cui vittime sono donne, esiste. Sì, ma esiste un problema che riguarda il femminicidio? Un problema di secondo omicidi? Secondo me non viene raccontato in modo obiettivo, cioè? Però non volevo entrare in questo tema perché non è... Cioè in che senso, scusi? L'equazione che è stata fatta in Spagna, sottomissione uguale incitazione alla violenza. Allora io ho scritto queste lettere alle mie amiche... No, però io vorrei capire da lei, secondo lei la discussione che c'è stata anche in Italia sul femminicidio è stata esagerata, sì o no? Anche una sola donna morta in 100 anni è troppo. Vabbè, questo quindi è evidente. Chi sono io per dire che sia esagerato? Anche una sola donna, a me non piace che la cosa venga usata per dipingere l'uomo come violento, aggressore, e la donna come sempre come vittima. Comunque le leggi, voglio dire, basta il comandamento non uccidere, ci sono le leggi contro l'omicidio, ci sono le aggravanti. Hanno esagerato i dati, allora esagerano coi dati. In Italia non c'è tutto questo problema che riguarda gli omicidi delle donne. Ma io lo so che lei vuole far passare. Non è un tema. Allora credo che questo sia un tema per magistrati, psichiatri, per... Io sono una mamma, una moglie che ha scritto alle amiche: scoprite qual è la vostra vera felicità. Non posso dare pareri anche sulla... Le piace la Russia di Putin? Ma lei... Sì, io credo che Putin, insomma, intanto è l'uomo dell'anno lui, nel senso che è lui che ha fatto delle cose che hanno cambiato il corso degli eventi in quest'anno. Cioè, le piacciono le leggi sui gay in Russia, per esempio? Ecco, lo sapevo, avevo premesso che non avrei voluto parlare... No, ma le piacciono o non le piacciono queste leggi? Allora, riguardo agli omosessuali, io penso che il progetto sull'uomo non geneticamente modificato prevede che siano maschio e femmina a stare insieme. Cioè a i gay sono geneticamente modificati? Comunque Putin è contro la propaganda omosessualista. E lei è sbagliato, secondo lei è sbagliata, sono giuste le leggi in Russia? Sì, lo può dire. Per quello che conosco, sì. Sono nel senso, lui non permette la propaganda perché vuole difendere i minorenni. Ecco, questa è l'unica cosa. Sulla diciamo che in Russia i gay non sono proprio amati, diciamo. Comunque sono geneticamente modificati, secondo lei? No, perché questo è interessante. Cioè, voglio dire, noi ci curiamo tanto che la mozzarella non sia, che sia DOP, che sia eccetera. L'uomo e la donna, DOP, sono un maschio e una femmina che generano una vita. Gli altri sono geneticamente modificati. Culturalmente modificati, sì. No, geneticamente, ha detto prima. Ma ti pare che si paragona la roba alla mozzarella? Che ne so, ha fatto lei il paragone, mica l'ho fatto io. Comunque, lo sapevo che volevate farmi passare come una bigotta. Ma passare, è lei che ha detto che i froci sono geneticamente modificati rispetto all'uomo e alla donna. Non è che l'ho detto io. Il progetto naturale sull'essere umano è che un maschio e una femmina generino una vita, e penso che per tutto quello che riguarda la condotta privata delle persone nessuno ha il diritto di esprimere. Vabbè, quello ci mancherebbe altro. Ecco, però una bella leggina come in Russia che proibisce alcune cose, va bene. Una legge che impedisca le adozioni. Noi invece siamo felicemente favorevoli sia al matrimonio che all'adozione gay. Che dobbiamo fare? Siamo perversi, malati, siamo schifosamente laici. Io ho due figli maschi, due figlie femmine e posso... Se fossero omosessuali che farebbe? voglio dire che posso giurare sul fatto che i figli hanno bisogno di un padre maschio e di una madre femmina. Io conosco tante famiglie negli Stati Uniti con due padri e due madri felici alla grandissima. Non lo so se sono felici, vedremo. Ah, lei dice di no? Crescono no, secondo male? Secondo me i bambini hanno bisogno di un padre maschio e di una madre femmina, perché hanno bisogno di una figura con la quale identificarsi in modo omologo. Vabbè, su questo si può ovviamente avere, si possono avere opinioni diverse. Sì, però non è il tema del mio libro. Pazienza, qui parliamo di tutto. Grazie Costanza Miliano, grande maratoneta come me. Esatto, ho fatto un'eccezione perché io di solito quelli sopra le 3 ore e 30 non parlo. Sopra le 3 ore e 30 sulla maratona, sì, ma hai ragione, mi hai punzecchiato su questo, ma me ne frego però, eh. Grazie, ciao. Questa della mozzarella non l'avevo mai sentita, però, Parenzo, devo dire la verità, la mozzarella non l'ho mai sentita. Cioè, c'è la mozzarella DOP, la mozzarella, l'uomo e la donna sono mozzarella DOP. Invece quella geneticamente modificata è stata più sottile, perché ha detto che noi ci impegniamo tanto a tutelare le mozzarelle, invece poi vabbè, ma questo non mi interessa più. Ma io voglio dire il signor Calvani, ma è spento, no, ma ascoltami, non quello hai della detto Jaguar, una cosa, quello che è andato via no, con la Jaguar. No, ma non hai detto una cosa fondamentale oggi, mi meraviglio, prima di chiudere cosa? Questa straordinaria puntata bisogna dire una cosa. Cosa, una cosa, dimmi. La signora Santanché, che era in vacanza con Sallusti a Courmayeur, sì, nella sua casa. Vabbè, ma è vecchia sta roba. Dai, no, ha registrato la casa come, che cos'è, come... Sì. Come fosse un luogo di lavoro, per una questione evidentemente fiscale, no? Perché vabbè. Ma la notizia non è questa. Indaghi la Guardia di Finanza. No, ma no, è tutto regolare, che indaghi? Non dico questo, no, ma mica sono così banale. Qual è la notizia? Non ho capito. La notizia è vecchia, ma la notizia di oggi è che la signora Santanché, quella che ha fatto questo escamotaggio. Vabbè, allora dai che dobbiamo chiudere, su, dimmi. Appoggia i forconi. Sì, ma lo so, cioè, ma è già da ecco, quindi se io fossi uno di quei signori forconi e sapessi questa cosa, che attraverso un escamotage legale vado in vacanza in un posto dove comunque però non so, o forse ci lavora sicuramente, beh, sai, io fossi un forcone, sai, gireresti la macchina e i forconi verso Courmayeur? No, questo. Un attimo, Pino da Roma, fammi sentire Pino da Roma. Ciao Giuseppe. Ecco un altro. Senti, matto, Giuseppe, dimmi. Voglio dirti che se vuoi capire come va la società italiana devi ascoltare la Zanzara. Sì, vabbè. Veramente. Non lo in so. Più però, e tu non ne hai bisogno, voglio difenderti, non hai mai detto né cretino né deficiente a nessuno. Bensì so che la tua regola è quella volteriana. Io non sono d'accordo con te, ma comunque mi batterò perché tu possa parlare. Sì, però cretino deficiente l'ho detto, No, io mi riferivo a Parenzo. Parenzo. Che non è né un topo da gabbia, come dicono, come ha detto qualcuno, ma è un valido giornalista che sa rendere poi, perché sa controbilanciarti. Però voglio solo dirti una cosa, da un dimmi. Po' di giorni ti sento estremamente nervoso, labile, che ti è successo? Allora, forse anche così, forse a parte una che... fidanzata che ti lascia. No, non ma è così. Forse la Lazio che non va no, bene. Ma lascia perdere, sono stupidaggini queste qua, non è questo, è che quando uno è alla radio non è se stesso, non è che uno è un automa, un robot, uno è se stesso. Se c'è una giornata particolare in cui ti girano un po' le palle, in cui ti sei rotto i coglioni così, lo dimostri anche alla radio, altrimenti uno finge, e qui nessuno finge. A domani 18:30, ciao.